Siamo qui per parlare della mostra che arriva a Bologna. Si tratta della mostra Yokai, le antiche stampe dei mostri giapponesi. Di cosa si tratta? Come è stata organizzata questa mostra? Allora, la mostra, noi siamo Vertigo Syndrome, è una società appena nata, abbiamo solo un anno. Organizziamo mostre che vogliono essere una diversità rispetto alle mostre che siamo abituati a visitare. Per cui delle mostre, il nostro tema è proprio una crociata contro l'uggia delle mostre d'arte, mostre che non siano noiose in sostanza. Quindi non pensate per un pubblico specializzato, ma anche per chi giustamente non ne sappia nulla. È una mostra però molto classica, quindi entrando in questa mostra si vedono tante stampe antiche giapponesi, Okusai, Hiroshige, Utamaro, poi Paolo Linetti, che è il curatore, le spiegherà benissimo in un video introduttivo quando le persone entrano. Però a questa si aggiungono tantissimi oggetti, anche oggetti d'armi molto affascinanti, armature, spade, lance, netsuke, che sono dei bottoni in avorio. Insomma, ognuna di queste sezioni uno ci starebbe tantissimo tempo solo in quelle, ma a questo si aggiungono anche delle sale immersive. Queste sale immersive sono la nostra caratteristica. In questo caso la sala immersiva è quella delle 100 candele, quindi un rituale che i samurai facevano in epoca di pace. Si ritrovavano all'interno di una stanza buia, accendevano 100 candele e ogni samurai raccontava una storia di orrore, di paura, per provare il coraggio degli altri. Alla fine di ogni storia la spegnevano, fino ad arrivare al buio completo, a notte fonda. Abbiamo ricreato questa stanza proprio per far vivere questa esperienza. Quindi sarà un'esperienza immersiva? Assolutamente, le nostre mostre sono immersive, però non immersive con le videoproiezioni, che è un po' la tendenza delle mostre in questo periodo. Non c'è nulla di male, però noi volevamo proprio fare qualcosa di diverso. Le nostre mostre sono immersive con le tecniche, diciamo, analogiche della teatralità. Devo dire, questa mostra è in seconda sede, è già stata a Monza, in questa veste è ancora diversa, quindi l'idea è anche quella di rinnovarle sempre, non adagiarci su quello che è già stato fatto. E però abbiamo già sperimentato questa mostra e le persone ne escono veramente entusiaste, perché la caratteristica è proprio quella dell'inaspettato. Non ci si aspetta di entrare nella sala delle 100 candele, non ci si aspetta anche di scoprire delle storie, queste leggende che i visitatori ascolteranno come delle favole proprio all'interno della mostra. E quindi quali sono alcune delle principali caratteristiche dei mostri giapponesi? Allora, i mostri giapponesi, questi poi ve li racconterà Paolo, ma prima di tutto nella nostra mostra si incontreranno i mostri giapponesi, cioè ad ogni tappa noi inseriamo un mostro, quindi ce l'abbiamo proprio qui di fianco, non lo possono vedere, ma il primo mostro che noi abbiamo realizzato 3D è il Kappa, quindi ha una fattezza completamente diversa dai nostri mostri. Alcuni mostri giapponesi sono magari più simili ai nostri fantasmi, ma mostri di questo tipo noi non li abbiamo mai visto, quindi con la fattezza, con la schiena con il guscio di una tartaruga, il becco sembra un po' un incrocio tra una rana, un uccello cattivo, ecco. Si scoprono proprio delle cose che sono completamente fuori dalla nostra tradizione, ma che sono la base di partenza per quello che tutti noi un po' più grandi, ma anche i bambini piccoli, conosciamo come gli anime, i manga, i Pokémon o i film d'orrore giapponesi. Quindi si va su leggende antiche, ma veramente si scoprono le origini di quelli che sono anche i cartoni animati che noi abbiamo amato di più. Benissimo, grazie. Grazie a voi.